Roma Trastevere, 11 marzo 1970. Care Eleuterio, il balconcino che vide stesi al sole i miei grembiulini di bambina sorridente, oggi vede stesi all'aria ancora fredda i miei fazzolettini colmi di lacrime adulte. Nel vicolo il colonnello del piano di sotto passeggia appoggiandosi al bastone. E io penso che il bastone da passeggio, in fondo, è solo un ombrello che ha fatto lo striptease. E penso anche che sei un ritardato mentale se fai scoppiare una tragedia per un tappeto spostato, sempre tua. Roma Farioli, 12 marzo 1970. Cara sempre mia, non c'è dubbio, sono un ritardato mentale. Un uomo che dopo anni di matrimonio con te pensa ancora di tanto in tanto di vivere accanto a una donna, non merita nessuna pietà. Dovrebbe essere incamiciato di forza e internato. Forse sono un perfetto cretino se litigo per un tappeto spostato, ma quando il tappeto suddetto, spostato con violenza da sotto i piedi di un dignitoso professionista, sposta il di lui baricentro, facendogli battere violentemente per terra quella parte del corpo che ha fatto di Brigitte Bardot una diva e di Tino Buazzelli un Nero Wolf, allora la cosa è diversa. Ciao. Ho scritto. Ho letto sui giornali di una chiatta della flotta sudamericana affondata nella Manica. Non sapevo né che tua madre fosse da quelle parti, né che battesse bandiera panamense. Eleuterio. Roma Trastevere, 13 marzo 1970. Care Eleuterio, gatticcio. Sarebbe come dire gatto meticcio, nel senso della discendenza non pura, anzi per niente, vale a dire bastardina. Se io non avessi spostato con violenza il tappeto, forse tu mi avresti aggredita e io mi sarei dovuta difendere con gli alari del camino, il che sarebbe stato peggio per te sulla testa e per me in caso di giudizio. Sul tavolo c'è una tua fotografia di quando avevi la barba. E io penso che la barba non è che una capigliatura che ha perso il senso dell'orientamento. Sempre tua. Roma Parioli, 14 marzo 1970. Irrecuperabile sempre mia. Da quando non ci sei tu, mi sento abbandonato e solo. Nessuno mi compiange vedendomi al tuo fianco. Nessuna più una parola di comprensione per me, sapendo che tu non ci sei. Mi manca quel piacevole senso di solidarietà di tutto il condominio e questo mi fa soffrire. Torna, anche perché ci deve essere un irreparabile guasto al tetto. Nevica in casa, c'è neve dappertutto. Il fatto è anche più strano, dato che da tempo fuori non nevica. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha scoperto perché nevica in casa. Non si tratta di neve. L'altro ieri ho aggiustato la lavatrice e chissà come la schiuma fuori esce. Però funziona perché dall'altro ieri è in moto. Eleuterio. Roma Parioli, 15 marzo 1970. Caro Eleuterio, micione, sono di nuovo con te, anche se tu non ci sei, perché quando rientrerai sarai qui con me, il che significa che io sono di nuovo con te. Ti ho preparato un magnifico risotto tartufato. E io penso che il tartufo è solo una patata che si mette troppo profumo. Penso anche al ridicolo motivo per cui litigammo l'ultima volta. Avevamo appena finito di mangiare e io ti chiesi, come sempre... Eleuterio, vuoi il caffè? Sono anni che dopo mangiato prendo il caffè. E sono anni che dopo mangiato mi chiedi se voglio il caffè. Lo voglio! Ma che modi? Tieni, era pronto. Te lo chiedevo tanto per dire. Cos'è? Ho detto per non dire di peggio. Perché in un certo senso dovrei esserti grato. Eh sì, ogni volta che mi servi un caffè mi riporti agli anni beati della gioventù. ai tempi dell'ultima guerra mondiale, quando il caffè era un ricordo e il Carcadè una disgustosa realtà. Ma che schifo è questo? È caffè, Eleuterio, un po' leggero se vogliamo, ma caffè. E allora non ho più dubbi. Tu sei la reincarnazione di Lucrezia Borgia. Tu aspiri alla vedovanza precoce. Sogni veli neri e crisantemi da deporre sul mio squallido loculo. Ma io non farò il tuo gioco. Porta via questa ignobile mistura, via! A parte il fatto che sei un caffone, Eleuterio, in fondo si tratta di un caffè leggero. Di sera cosa vuoi prendere? Un condensato di caffeina? Anche mammina ha suo marito, cioè a papà. No! Non mi dire che mammina ha un marito. Sì, perché è una novità. Per me sì. Ho sempre creduto che avesse moglie e che il fatto di farsi chiamare con un nome da donna fosse soltanto uno scherzo. Eleuterio, smetti, la mammina è mia madre, le voglio bene. Ma anch'io voglio bene a Loreto, il pappagallo, ma non per questo lo chiamo papà. Lascia, vado io. No, vado io, non ti alzare. Ecco lì, la solita pigrizia, la malafede innata. Vado io, non ti alzare. E rimani spaparanzata senza un accenno di movimento. No, lascia, vado. Pronto? Chi è? Non sento. Chi è? Ah, è mammina. La sento lontanissima. C'è speranza che parli dalla Svezia. No, non è in Svezia. Peccato. Pronto? Non ti sento. Da dove parli? Come? Da Pescasseroli? E a Pescasseroli? Cos'è? Ancora assumono spallatori di neve a Pescasseroli? Ma no, e poi mammina non è uno spallatore di neve. Oh, se me lo dici tu. Sì, cara, ora te la passo. Pronto, sono io, mammina. Ah no? Ma non in quello, mammina. Nell'altro armadio, quello azzurro in corridoio. Cosa? Ciao, ciao, ti chiamo domani, buonanotte, ciao. Senti, a Pescasseroli conosco una casa che ha un armadio azzurro in corridoio e un corridoio che porta le stanze da letto. Il tutto fa parte di una piccola villa che risulta di nostra proprietà e che proprio la settimana scorsa ho fatto ripulire a costo di enormi sacrifici e l'ho fatta rimettere in ordine in vista dei miei prossimi giorni di ferie. E nell'armadio azzurro ci sono le lenzuola. Che ci fa la cosiddetta mammina nella mia casa di montagna? Il weekend. Ah sì? Non puoi dare le chiavi di casa mia, a mia insaputa, a toro seduto, a quella suocera di tuo padre. Eleuterio, in fondo ho fatto un piacere a tua suocera. Non mi ricordare i guai di famiglia. Vai in terrazza e con ampi segnali di fumo cerca di mettere insieme il messaggio sloggiare subito. Ma se no ti faccio assistere a una riedizione del film Ombre Rosse. Fermati! No! Fermati, se no intervengo, Eleuterio! Non sono Eleuterio, sono Buffalo Bill! No. Dove sono le chiavi della macchina? Dov'è la pistola? Ai! Sono intervenuta! E adesso me ne vado! Che torno da toro seduto, voglio dire da bambina, brutta, brutta. Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, andiamo fuori sabato prossimo, Eleuterio? Non lo so, credo di no. Ah, magnifico, allora possiamo prestare casa a mammina, ha tanta voglia di andare a Pescasseroli.